omicidi e situazioni complesse. Conduttori TV mostrano finto interesse, interpreti di crimini feroci senza limiti, studiano gioventù di cui sono i capostipiti. Trasmettono indifferenza, indifferita, non si differenzia la finzione dalla vita. Se sai che esiste ancora, la fame sta attento. Il mondo chi profondi non vuoi finirci dentro. Tutto va male, da qui si alza un sol lamento, ma non muovi un dito, il tuo attivismo è troppo spento. Dietro i nostri volti solo vari sicari, brandelli d'orrore da offrire ai commensali. Ho bisogno di credere in ogni momento, guardare domani e sorridere al cambiamento. Contro ogni intralcio, contro ogni impaccio schiaccio, parole di fuoco, indifferenza di ghiaccio. Visto che l'indifferenza sopra sta ogni cosa, una vita senza stimoli è troppo noiosa. Si posa su di noi per poi volare via, una vita senza voglia con tanta nostalgia. Visto che l'indifferenza sopra sta ogni cosa, una vita senza stimoli è troppo noiosa. Si posa su di noi per poi volare via, una vita senza voglia con tanta nostalgia. Non sono indifferente, tienilo presente, non me ne importa niente di che pensa la gente. Io rimango vero, né teste né pensieri. L'indifferenza resta uno dei tuoi problemi. Mi temi e scleri, tu ogni giorno cambi faccia. Ti destino e ti riciclo, sei solo carta straccia. Tu rimani differentemente indifferente. Ciò che non si vede, allora lo si sente. Io viaggio nel futuro, tu pensi al tuo presente. Vedi strada il barbone ma non senti niente. Punti di vista differenti, essere diffidenti. Infatti chi non si fida, adesso non si lamenti. Intenti a dare il massimo, aiutare il prossimo. Manco fossero il 13° posto. Come Foscolo ti scrivo sto sonetto. Io sono indifferente ma nessuno è perfetto. Visto che l'indifferenza sopra sta ogni cosa, una vita senza stimoli è troppo noiosa. Si posa su di noi per poi volare via, una vita senza voglia con tanta nostalgia. Visto che l'indifferenza sopra sta ogni cosa, una vita senza stimoli è troppo noiosa. Si posa su di noi per poi volare via, una vita senza voglia con tanta nostalgia. Non posso rimanere indifferente allo stato dove governarci delinquente, che abbondantemente prende in giro la gente e degli adolescenti è il miglior cliente. Non rimango indifferente al prete che violenta, la ragazza che è scomparsa, la guerra che si avventa, la caduta di edifici senza fondamenta. E fondamentalmente non rimango indifferente a mia madre e i dispiaceri che le ho dato, a mio padre per ogni giorno che ha lavorato, a mio fratello che si è laureato e alla fine fa il soldato per conto dello Stato. Non rimango indifferente, anzi preoccupato, per giovani che oggi non conoscono il passato. E mi ritengo fortunato, per loro non ho invidia, visto che i loro idoli sono dati dai mass media. Visto che l'indifferenza sopra sta ogni cosa, una vita senza stimoli è troppo noiosa. Si posa su di noi per poi volare via, una vita senza voglia con tanta nostalgia. Visto che l'indifferenza sopra sta ogni cosa, una vita senza stimoli è troppo noiosa. Si posa su di noi per poi volare via, una vita senza voglia con tanta nostalgia.